9 in punto, la versione di Oscar. Oh, oh, of everything that stands the end, no safety or surprise the end. I'll never look into your eyes again. Cari radioascoltatori di Radio 24, come vedete la versione di Oscar anche in questo 2012, chissà per quanto sbaglierò l'anno, come sempre quando più invecchio più sarà così, anche in questo 2012, anche in questo lunedì 2 gennaio 2012 comincia coi Doors, che da diciamo più degli ultimi tre mesi ci accompagnano quotidianamente, e del resto li leverò quando i mercati avranno avuto buone risposte da parte dell'Europa su un strumento cooperativo adeguatamente pronto a intervenire finanziato, che smentisca la scommessa dei mercati sul fatto che il 2012 potrebbe essere l'anno, Dio non voglia, ma potrebbe essere l'anno a cui l'euro non tiene. Finché non sarà così, finché ci sarà il ballo dello spread, finché saremo tutti giorno per giorno con la mente, la testa, il portafoglio appeso all'andamento di un'asta, temo che Doors e questa musica ipnotica di inizio di Apocalypse Now continuerà a tenerci compagnia. E anche diciamo questo mese di gennaio, un mese di gennaio in cui, tanto per ricordarci l'inizio d'anno, Standard & Poor's diciamo c'ha fino a 15 paesi dei 27 euroarea di cui potrebbe abbassare il rating in questo mese. Fitch più buona solo 6. In Finlandia la terza settimana di gennaio ci sono elezioni in cui potrebbe vincere un euroscettico con ulteriori complicazioni, a fine mese un Consiglio europeo straordinario per tentare di mettere la testa non solo sull'allarme finanza pubblica, ma anche su quello lavoro-occupazione, che non a caso è stato al centro del messaggio inizio anno del capo dello Stato, con le reazioni dei sindacati sulle tensioni sociali che trovate sui giornali radio e sui telegiornali di ieri e di oggi, visto che ci sono le sole vertenze aperte oggi, riguardano ben 300.000 posti di lavoro con 230 vertenze seguite dal governo. Ma questa puntata di inizio anno la dedichiamo con un fuorisacco a uno dei temi che abbastanza abitualmente io tocco nell'arco della trasmissione, che in questi ultimi mesi non ho potuto più sfiorare perché presi dall'emergenza quotidiana dei mercati dell'Italia che doveva recuperare credibilità, ed è la guerra di genere, dove per guerra di genere io non intendo quella da parte delle donne per conquistare la parità, ma quella da parte degli uomini per non mollare la presa, perché questo è un classico tema su cui il gattaccio fa arrabbiare il suo pubblico maschile, che di solito inizia, capendo il tono e il tema della giornata, a reagire durissimamente. Vediamo se questo inizio 2012 vedrà il pubblico maschile della versione di Oscar meno, diciamo così, artigliato del solito, perché vogliamo cominciare questo anno con ospiti che si interroghino e ci interroghino e vi provochino per telefonare al numero verde 800 24 00 24, sul tema: ma in questo 2012 che cosa davvero ci si può attendere, si può sperare, si può immaginare, si può legittimamente considerare, oppure si può imporre per legge o promuovere per legge, che qualcuno dei tanti comportamenti di ostacolo da parte del genere maschile a rapporti più distesi, più giusti, più equi, meglio capaci di colmare il gap salariale a parità di qualifica, meglio capaci di colmare la vergogna di essere, rispetto a tutte le famiglie dei paesi avanzati, quelle in cui il coniuge o la compagna femminile è quella col maggiore quantità di ore lavorate non retribuite al giorno, per gli obblighi e le incombenze familiari, parentali, dei disabili, tutto ciò che circuita intorno all'integratore sociale fondamentale italiano, che è la famiglia, mentre invece naturalmente il compagno o l'uomo o il marito, chiamatelo come volete, è quello col minore carico orario rispetto a quello di tutti gli altri paesi avanzati. E poi in tanti altri esempi ci si può produrre. Sapete che c'è chi propone per esempio che per dare una mano a questa curva demografica disastrosa dovuta a un sistema fiscale e a un sistema salariale che pesa terribilmente sulle spalle delle donne e delle famiglie, molto di più che negli altri paesi, propone per esempio una tassazione differenziata per genere, cioè propone, invece di alleviare il cuneo contributivo per tutti, di fare di concentrare sull'offerta aggiuntiva di lavoro femminile uno sgravio contributivo, uno sgravio IRPEF solo per le lavoratrici donne. Tante sono le possibili proposte, era un po' di mesi che non ce ne occupavamo e mi pare che nel frattempo grandi passi in avanti non ne abbiamo fatti, purtroppo, al di là di tante chiacchiere, e allora abbiamo deciso di iniziare questo 2012 chiedendo ad alcune ospiti di dirci come la pensano e di sentire voi tutti, quindi telefonate, ma per capirci iniziamo con un brano riepilogativo che apparentemente sembra comico, ma come sempre la vis comica è quella che sa parlare in profondità agli occhi, la testa, i portafogli delle persone. Non è mai, nella mia opinione, quella separata e fatta solo di battutacce. Aristofane era grande perché sapeva parlare a nome di una parte di Atene che non sopportava i ricchi e i potenti, e in questo era molto più salace di Plauto, tant'è vero che Cicerone diceva: ma noi le comedie di Aristofane col cavolo ce le saremmo mai potute permettere a Roma, perché noi del Senato non avremmo mai consentito. Ecco, la grande vis comica è quella che sa parlare dei difetti anche dei maschi in questa maniera. Sentiamo questo brano e poi capiremo perché. C'è questa voce che dice che io sono nemica degli uomini, che io odio gli uomini. Io? Cioè, io sono iscritta al WWF da quando è stato fondato, ok? Cioè, io gli animali li amo tutti, dal muflone al maiale al maschio italiano, io vi amo! Davvero! Questa sera sono qua per farvi complimenti, ragazzi! No, davvero, ve lo devo veramente dire, perché siete riusciti a creare un mondo a vostra immagine e somiglianza. Un felino maschilista, eh? Così, dai, via, un argomento a caso, pubblicità. Ve la ricordate? C'era la bonazza di turno, c'era il piattino di gorgonzola. L'hai mai provato con le pere? Allora, se fossimo in una società paritaria, io voglio vedere la pubblicità del Certosino con un manzo che esce, si cala le braghe e dice: bello, vuoi provare con le albicocche? E lì mi sentirei contenta. Allora, era Deborah Villa, conduttrice di Lilith, programma della domenica sera di Rai 3, e la riconoscete perché l'avete vista in diverse trasmissioni, Zelig e così via, e insomma, ed è anche lei ospite nostra stamattina, e la ringrazio perché è un inizio d'anno che uno decide di dare un po' di tempo a trasmissioni radiofoniche, così è un pochino un inizio d'anno pazzo. Grazie e buongiorno a Deborah Villa. Ma buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti, come va? Ma insomma, intanto adesso vediamo quanto si arrabbiano i nostri ascoltatori. Insieme a te c'è con noi in questa prima parte della trasmissione Barbara Serra, che è giornalista di Al Jazeera a Londra, una delle colleghe, diciamo, che da sempre si indicano ai propri studenti quando si fa il master di giornalismo come ciò che non siamo e ciò che dovremmo volere di essere nella media di molti colleghi italiani, per serietà, rigore, proprietà, e anche per la capacità di saper unire la propria, diciamo, matrice culturale, e per propria matrice culturale non intendo quella di origine italiana, intendo quella occidentale, in un dialogo con facendo un mestiere, rivolgendosi a una parte del mondo che non ce ne siamo accorti, ma quella che è più profondamente cambiata nel 2011, che sicuramente più profondamente rischia di influire, al di là della nostra crisi dell'euroarea, nel prossimo futuro, visto che il segno cambiato in tutti i paesi arabi con la primavera araba è un segno di quelli che destinati a cambiare e mutare profondamente la politica e le opinioni pubbliche. Barbara Serra, buongiorno e grazie. Ecco, noi Barbara buongiorno Serra. Buongiorno e buon anno. Ecco, grazie. Buongiorno e buon anno. Posso chiedere innanzitutto, prima di andare a Deborah Villa, Barbara Serra, che opinione ha della sua esperienza, di quello che può concretamente cambiare sui rapporti donne e uomini in questo 2012 italiano? Sai, in Italia, ora paragonando più l'Italia e l'Inghilterra, ovviamente il mondo arabo è ancora socialmente in un'altra sfera, io credo che come leggi più o meno ci siamo. Credo la più grande differenza tra l'Italia e l'Inghilterra è proprio una questione culturale, e a volte io non voglio certo attaccare le donne italiane che hanno molte difficoltà, però a volte è proprio come se in Italia la donna non lottasse, come se non ci siamo abituate a lottare per i diritti, magari come in Inghilterra o in Scandinavia fanno più naturalmente. Ovviamente al nord lo fanno perché sono più facilitati dal resto della società, però credo che in Italia nel 2012 le donne si debbano abituare più a lottare, anche per le cose piccole, sai, io noto sempre la cosa che più mi dà fastidio in Italia quando arrivo è la pubblicità, come abbiamo sentito prima in quello sketch molto divertente, la pubblicità in Italia, questo uso sfacciato e continuo del corpo, perciò iniziare a lottare dalle cose piccole che poi possano portare anche a cambiamenti più grandi. Allora, intanto il pubblico ha cominciato, come immaginavo, a reagire, c'è chi mi invita immediatamente a pensare ai divorzi, ai figli, alla casa, la donna è favorita oltre ogni misura da due, tre decenni di giurisprudenza scandalosamente, unilateralmente a favore delle donne, basta col piagnisteo della presunta parità, ci levano i figli e vogliono i nostri soldi, questo è uno dei temi fondamentali del conflitto di genere, perché i nostri ascoltatori, molti nostri ascoltatori dicono che in realtà c'è stato un eccesso di tutela giuridica, per cui praticamente i figli, il rapporto coniugale è diventato praticamente una specie di pretesto per un perenne ricatto e per perenni vendette patrimoniali, e anche i figli sono diventati esclusivamente questo. Naturalmente le donne accusate di essere privilegiate, la giustizia italiana di essere uno strumento cieco della vendetta dei sessi a favore delle donne. Deborah Villa, siete delle privilegiate, e dice anche Barbara Serra, tutto sommato non troppo disposte a impegnarvi a lottare. Ecco, io quello sono d'accordo. Allora, sul fatto del privilegio, è vero, noi siamo tantissimo privilegiate, cioè quando siamo insieme in coppia dobbiamo occuparci di tutto noi perché così è dovuto, quando ci separiamo no, non si capisce per quale motivo. Mi viene da dire, poi non portiamo le esperienze personali, perché questo poi capita spesso quando una persona è ferita, no? A suggello di un'opinione o di una modalità globale, cioè le donne, la prima causa di morte nel mondo per le donne è per mano di un uomo e non in Afghanistan o in Uzbekistan, ma nel mondo. Brava, quindi mi viene brava, da dire, fai stiamo bene, un attimino calmi, cioè mettiamo un attimino dei paletti in modo tale che poi a me dispiace se questa persona ama i suoi figli, è stato trattato male, ingiustamente, in giusta sede vedrà di portare avanti la propria causa e i propri diritti, io gli auguro che giustizia sia fatta. Su questo non ci piove. Detto questo, invece, sul fatto, su quello che diceva Barbara Serra, io tra l'altro abituata a lavorare in televisione, mentre lei diceva che le donne non lottano, io la sentivo con la testa come una scema al telefono. Sì, sono d'accordo, perché diciamo che in Italia siamo un po' annichiliti tutti da un punto di vista di lotta per i propri diritti, siamo un po' tutti spenti, infatti hanno fatto un po' quello che volevano in Francia, dove per esempio invece c'è sempre stata anche magari più destra, mi viene da dire, il governo, ma quando c'è da difendere i diritti dei lavoratori e degli studenti la piazza si scalda, si riempie proprio, i cittadini di destra e di sinistra, se non sono d'accordo con quello che il governo sta facendo, lo manifestano, che un modo è un segnale, un campanello d'allarme per far capire chi ci governa, cioè chi è stato votato da noi ed è stato messo lì, e ragazzi guardate che non vi state occupando dei nostri interessi ma forse degli interessi di una parte della società, la più ricca. Ecco, questo io sì. Le donne in effetti sì, hanno ultimamente anche abusato tantissimo della propria forza, diciamo così, del proprio corpo per ottenere posti, privilegi. Ma cioè, tu sei contrario alle quote, per esempio? Ma guarda, sì, io sono contrario alle quote perché mi sembrano una riserva indiana, cioè io esigo che ci sia il 50% ma senza neanche doverlo dire, ragazzi, cioè ma se in una società il 70% delle donne è più brava degli uomini, allora il 70% deve stare nel consiglio di amministrazione, cioè è proprio una lobby quella che si viene a creare, cioè non si viene, ma questo anche rispetto agli uomini, ragazzi, cioè se io non sono un ruffiano, non sono il figlio di, non sono, non arrivo a, non c'è la meritocrazia in Italia, c'è il nepotismo e questo lo sappiamo. Per le donne c'è un gradino in più, ecco, questo sì, questo lo dico, però basta, anche gli uomini, basta, su. Allora, tanto è l'ultimo anno, no? Poi finisce. No, beh, adesso non esageriamo, sennò qua già mi dicono che metto sempre i Doors perché sono troppo pessimista. Io non sono pessimista, mi sono sposato recentemente, ho dichiarato anche che vorrei fare una bambina, figuriamoci un po'. Ma e quindi io penso a un futuro, malgrado tutto. Barbara Serra diceva prima che in termini di leggi, per così dire, cioè di provvedimenti normativi posti nell'ordinamento, tutto sommato, dovendo fare un paragone alla sua esperienza tra Regno Unito e Italia, insomma, non è che ci siano grandi cose da importare, se ho ben capito. Ci ha abbiamo parlato di una differenza dei comportamenti. Però faccio una domanda concreta che riguarda il welfare, perché uno degli aspetti fondamentali per cui alla fine noi abbiamo questa curva demografica così disastrosa e contemporaneamente una situazione così pesante per le giovani donne che provano a lavorare o che hanno un posto di lavoro o che provano a mantenere un posto di lavoro, è una differenza in cui la differenza di tutela tra chi è ipertutelato, secondo me in Italia, tra chi invece non è per niente tutelato, è ancora una volta a loro svantaggio totale. Se teniamo conto del fatto che praticamente oltre il 60, quasi il 70% delle donne giovani che provano ad avere un figlio entro i 35 anni, che mi sembra un'età improbabile, però probabilmente avanzata, però è così, hanno contratti di lavoro atipici nel nostro paese. Questo significa, per esempio, che avendo contratti di lavoro atipici non hanno diritto all'assegno di maternità. E in moltissimi casi, un caso su quattro tra loro, di fronte alla nascita del primo figlio, si esce dal mercato del lavoro perché il tipo di contratto atipico spessissimo viene sottoscritto con dimissioni preventive per aggirare il divieto di licenziamento, e l'espulsione dal mercato del lavoro in quelle condizioni, per come funziona oggi il mercato del lavoro italiano, se non lo riformiamo e spalmiamo e ridistribuiamo radicalmente le tutele, si presenta nel conto alle donne. E anche soprattutto per questo che noi abbiamo una curva demografica così disastrosa e che è così difficile imbarcarsi in una cosa così naturale e stupenda come fare figli. Allora, da questo punto di vista, paragonando le esperienze e l'evoluzione del welfare in Gran Bretagna, spesso accusato negli anni alle nostre spalle di essere troppo generoso, troppo unifico, e che poi è stato duramente tagliato con un paese che è sceso in piazza, al welfare e al mercato del lavoro italiano, anche lì siamo sicuri che non ci sia niente da copiare, importare, o almeno qualcosa su cui riflettere perché le donne ci vadano meno di mezzo, le famiglie ci vadano meno di mezzo? Che cosa pensi, Barbara? No, probabilmente sì, qui c'è più tutela, diciamo, per tutti, cioè qui ad esempio se si è disoccupati si ha dei soldi dal governo, anche da giovani se non ha mai lavorato, perché ovviamente ci sono delle grandi differenze e questo sistema, soprattutto di questi tempi, è molto criticato qui in Inghilterra, perciò probabilmente cambierà nei prossimi anni. No, sicuramente ci sono delle differenze, diciamo che forse da quello che ho visto io, qui i datori di lavoro hanno più paura di aver gente che gli faccia causa, perciò ad esempio sai, licenziare una donna appena si sa che è incinta, cioè qui sarebbe un suicidio un po' per il datore di lavoro, perciò ci sono più tutele. Però c'è anche da dire che c'è tutto un altro sistema, proprio io torno a dire che è anche una cosa molto culturale qui, perché molte donne hanno la scelta poi di non andare e di non tornare al lavoro, però è molto più accettato che una donna poi torni al lavoro. È difficile un po' da spiegare la maniera in cui potrebbe essere diverso. Ci sono delle tutele diverse, però è anche una cosa molto culturale, molto sociale, e c'è anche molto più aiuto con il part time una volta che una donna torna al lavoro e si trovano part time meno ore o meno giorni. E in Italia non so se c'è abbastanza una lotta per questo proprio tra il dipendente e il datore di lavoro. Io infatti temo che da questo punto di vista noi dimentichiamo che, poiché mettiamo il più delle rivendicazioni sul rapporto a tempo indeterminato, così come è oggi tutelato nel mercato del lavoro italiano, secondo me da cambiare, dimentichiamo che appunto la flessibilità dei tempi è un'altra delle modalità. Sono molto d'accordo con quello che diceva Barbara Serra. Ma venendo alla tua diretta esperienza di giornalista, a me è capitato, lavorando ormai da diversi decenni, lo dico sempre, di constatare in tutte, con nessuna eccezione, in tutte le aziende editoriali in cui ho lavorato, e come anche nelle aziende non editoriali in cui ho lavorato, che sempre le donne bravi, giovani e capaci dovevano andare incontro a rotture di scatole incredibili e a richieste del tutto improprie, che non c'entrano niente con le prestazioni di lavoro e con le valutazioni per merito in caso di avanzamenti, attribuzioni di responsabilità. Io questo l'ho constatato in tutte le aziende in cui ho lavorato, che le carine erano suburgate, gli si chiedeva fin dall'inizio, da capi abbastanza malati di testa, di fare o comunque di comportarsi, non sempre di fare cose improprie, e in caso contrario naturalmente scattavano cose. Io avrò beccato le aziende più maschiliste di questo paese, però io ho sempre detto, e a volte ho brutalmente litigato con i miei capi per questo, perché francamente mi è capitato anche qualche anno fa di avere un paio di stagiste molto brave e un grande direttore che rompeva loro le scatole, e una di queste poi è stata sbattuta fuori e io mi battei per loro. Allora chiedo a Barbara Serra, queste cose al dove hai lavorato e dove ti sei affermata tu non capitano perché, come ci hai sempre fatto notare in queste tue due risposte, è diversa la testa o bisogna aspettare che i maschi italiani evolvano nella loro testa, cioè in un periodo molto lungo, non si può fare qualcos'altro perché cambino testa un po' prima, secondo te? Sì, guarda, in questo punto forse la differenza più grande è che i capi non erano esclusivamente uomini. Nei posti dove ho lavorato io, alla BBC o a Sky, anche ad Al Jazeera, sai, che magari insomma cultura araba, uno si pensa più maschilista, anche lì ho delle cape donne. Ora, io non voglio dire che gli uomini per niente siano sempre maschilisti e le donne sempre no, a volte hai delle donne che magari per cercare di avere successo diventano ancora più dure con le altre, con le colleghe femmine che non uomini. Però sicuramente io ho notato, e forse sta cambiando poi in Italia, che però i capi in Italia rimangono quasi esclusivamente maschili. Allora a quel punto è tutto che un po' fuori bilancio, no? Perciò se ci fosse l'uomo maschilista, che a volte insomma c'è, allora trova meno lotta verso una cultura che è tutto uguale. Per me, cioè, aiuta a mischiare in cinema che siano uomini o donne o anche gente di, sai, background sociale o culturale diverso, mischiare. Perciò in questo caso sì, è una differenza culturale, come ho già detto prima, ma la differenza più grande è che i capi molto spesso erano donne, o nel management c'era una presenza femminile molto più grande. Questo già aiutava. Certo, e questo però ci insegna che o noi riusciamo in qualche modo a promuovere il fatto che le donne sottorappresentate in ogni ambito di responsabilità nel nostro paese giungano più rapidamente a questo, oppure naturalmente il problema persiste. Io infatti sono per dare delle spallate su questo, io non ero affatto per esempio le percentuali nei consigli di amministrazione delle quotate, visto come andavano le cose in Italia mi sono convinto di una sunset law, cioè di una legge a tempo che però che poi è passata, che le promuova. La reazione dei grandi quotidiani è stata all'inizio dire ma sì che bella cosa, poi iniziare a dire che per le aziende è sbagliato perché promuoveranno solo i nipoti e le parenti eccetera eccetera, come puntualmente è iniziato ad avvenire. Io penso che a quel punto a maggior ragione avremo degli strumenti per criticare quelle aziende ed esporle poi al bias, al biasimo del mercato. Vedremo, ma io credo che un po' di spallate a tempo in Italia bisogna darla, perché altrimenti, siccome di donne che comandano ce ne sono poche, continueremo ad averne poche e a dire tutto cambierà solo quando ci saranno. Deborah Villa, alcuni pensano che uno dei ruoli di genere su cui fanno carriera le comiche italiane, e un po' lo pensano anche nel tuo caso, è quando fanno le caricature delle donne sfigate. Allora dice, ma è un po' troppo comodo però, perché così ci si impernia una parte della propria vita. Io non la penso così, perché penso che questa sia una maniera per dare ceffoni a volte bendati facendo sorridere, che sono i migliori, come quelli di Aristofane. Però detto questo, a chi ti accusasse di fare un pochino civettualmente la parte della sfigata e su questo di andare a di marciarci un po', come risponderesti? Ma guarda, sì e no, nel senso che io sfigata mi ci sono sentita per 40 anni e questo lo dico pubblicamente senza vergogna, nel senso che proprio non essendo io una gran bellezza ho dovuto sempre puntare un po' sulla simpatia, proprio questo nella vita privata, com'è? Diventando un po' il gioppino, il giullare, l'anima della festa, insomma sai come capita, no? Diciamo puntato giustamente su quelle che erano le mie qualità, così. Paradossalmente sono migliorata adesso che ho 42 anni dopo che è nata mia figlia, perché è come se fossi rinata, quindi adesso in effetti non mi ci riconosco più nel ruolo della sfigata. Infatti nell'ultima edizione di Camera Caffè ho fatto anche molta fatica a interpretare i patti. Dicevo sì e no, nel senso che un po' appunto dico no perché io mi ci sono sempre sentita, adesso me ne frego, nel senso che adesso sono libera, sono una donna liberata, mi si è aperto il kundalini con il parto, vai a sapere cosa mi è successo, l'età, il giro di volta, non lo so ragazzi, sono impazzita, mi sembra di avere 15 anni, mi sento benissimo nel mio corpo, oramai scarsissimo, c'ero meglio quando ne avevo 20, ma non me ne frega niente, cioè mi sento da Dio così. Dall'altra parte ovviamente un po' di mestiere c'è, nel senso che se stai su un palco hai sempre una maschera, un filtro, una consapevolezza delle armi che stai mettendo là. Dopodiché appunto è il classico meccanismo del giullare che è, diciamo così, irride il povero per colpire il re, nel senso il messaggio appunto poi arriva forte e chiaro, come dicevi tu, no? Cioè è un po' un gioco che tu utilizzi, ma più che un gioco proprio una consapevolezza, anche perché insomma vabbè, io avevo fatto anche in realtà un ruolo di una fatalona, mi ricordo una Colorado, ma era venuto proprio male, nel senso che non era proprio nelle mie corde, quindi non, però diciamo che ho usato un po' tutte le armi, quelle del, cioè, tutto quello che ho a disposizione lo uso, dopodiché insomma vedo che quello che funziona meglio continuo a utilizzarlo, insomma semplicemente quello. Sono abbastanza d'accordo, e comunque l'essenziale è colpire e fare riflettere. Dopodiché, quando vedrò in prima serata una trasmissione in cui ci sarà un modello tipo di quelli di Abercrombie, per cui tutte poi si disputano per andare in fila ad Abercrombie rigorosamente con i pettorali scolpiti e a nudo e solo con un paio di calzoncini, e una signora bravissima invece perfettamente vestita che parla solo mentre lui sta muto, quando vedrò quello in prima serata avrò capito, e non mi auguro di vederlo così, non vorrei vedere né di qua né di là, che qualcosa è veramente cambiato nell'impostazione dei palinsesti. E però il problema è, come sempre, i palinsesti dipendono dall'audience, quindi la testa di chi sta a casa, il punto su cui riflettere molto, e temo che quindi in questo meccanismo parentale verso padri e figli sia come sempre uno degli aspetti da cui derivano il più dei problemi di questo paese. Allora, i nostri ascoltatori mandano messaggi, alcuni io capisco benissimo, perché messaggi del tipo: sono sposato, in separazione dei beni, ho dovuto lasciare mia figlia, la mia casa, mia moglie lavora in nero, non mi rimane abbastanza per vivere, ha comprato le case in Ucraina, eccetera. Capisco perfettamente tutti questi casi umani, e ripeto, forse anche la giurisprudenza italiana, perché su questo punto vi sapete sensibile, si riequilibrerà quando nel resto però della società italiana avremo riequilibrato. Per il momento sono d'accordo, la sola giurisprudenza squilibrata per rimettere in regola storie squilibrate a vantaggio degli uomini di secoli non è granché giusta, però la società italiana è molto vischiosa al cambiamento. Poi c'è qualcun altro che dice: eh sì, tu vuoi promuovere le donne anche responsabilità, però vai a vedere nel Parlamento i giovani, perché di uomini zero e di donne 12, come te lo spieghi? E me lo spiego per le ragioni che sappiamo, per questa legge elettorale, caro ascoltatore Guido, che consente ai segretari del partito di scegliere servi, cameriere, e magari di scegliere anche servi e cameriere carine invece che carini, ma questo perché sono maschi e quindi le scelgono carine. Ecco, questo è, non è che bisogna girarci intorno, perché la sua domanda ha una risposta, per così dire. Allora, dopo le risposte che ci hanno dato Barbara Serra, giornalista di Oggi da Londra, e il più l'avete sentito, non era un problema di norme tanto, ma di testa, dal punto di vista di Barbara, da copiare dal Regno Unito, da introdurre riflettendo sull'esperienza del Regno Unito, un problema di testa, lì la multiculturalità, la multirazialità induce a scommettere meglio sul talento e quindi a fare meno caso alla differenza di genere. E con Deborah Vill, comica, abbiamo riflettuto sul fatto che spesso possa come sempre essere premiante giocare sull'antitesi, cioè riflettere su un ruolo di donna sfigata e, per così dire, dimenticata per via di essere una vampona, per dare qualche schiaffetto in testa agli italiani maschi che se lo meritano. Allora continuiamo con questo resoconto da un'altra parte d'Europa, di un'altra italiana solidamente impiantata in un contesto professionale ipercompetitivo nel paese Euroleader, cioè in Germania, perché abbiamo con noi al telefono Esther Faia, che insegna alla Goethe University di Francoforte, insegna politica fiscale monetaria e ha un curriculum internazionale di tutto rilievo. È riuscita, perché ha la testa dura oltre che essere molto brava, ma forse anche perché si è appoggiata ad altri ordinamenti che quello italiano, a conciliare tutto questo con la giovane età e con tre figli. E la domanda che faccio a Esther Faia è: sicuri che non c'è qualche cosa da copiare, importare o

chiedo alla professoressa Faia, in Italia c'è un dibattito, ora che ci si avvicina alla riforma del mercato del lavoro e alla riforma del regime complesso delle deduzioni e detrazioni fiscali, entrambi i tavoli toccheranno in pieno a questo punto, la comunità degli economisti si divide, diciamo, in due. C'è chi per il sostegno all'occupazione chiede sgravi fiscali generalisti sul reddito dell'impresa come sul reddito da lavoro, e a questo naturalmente chiede poi di affiancare una riflessione più complessiva sulla riforma del mercato del lavoro per equilibrare le tutele tra chi oggi ce l'ha e chi non ce l'ha, e c'è chi dice invece no, la questione femminile merita una delle policies particolari, cioè invece che fare sgravi generalisti concentriamo gli sgravi sul reddito, sulla parte contributiva delle lavoratrici donne, perché mentre l'impatto delle politiche di sostegno alla famiglia eccetera eccetera, stante i limiti del bilancio, saranno troppo lunghi nel tempo, almeno l'effetto incentivo all'offerta di lavoro aggiuntiva femminile, se noi diciamo facciamo gli sgravi solo alle giovani donne e alle donne per lavorare di più, quello è più efficace. Ecco, in questa specie di forbice lei dove si pone? Guardi, è la stessa cosa, diciamo, l'osservazione molto arguta che lei ha fatto prima. In realtà non c'è una contraddizione tra l'essere madre e l'essere lavoratrice, quindi non è che ci sono delle politiche, non so, come il quoziente familiare che incoraggiano ad stare a casa piuttosto che la detassazione del lavoro femminile che incoraggia semplicemente la partecipazione al mercato del lavoro femminile. Sicuramente ci deve essere un bilanciamento tra le politiche. La questione è che, come ha detto lei, i dati dimostrano che c'è addirittura una correlazione positiva tra tasso di fertilità e partecipazione della donna al mercato del lavoro. L'esempio più importante è stato la Francia, che con la riforma della famiglia e del mercato del lavoro femminile del 2000 ha avuto un'incredibile crescita del tasso di fertilità, e contemporaneamente anche, diciamo, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è stata sostenuta. Lì le politiche non sono di detassazione, sono delle pure politiche alla famiglia, cioè c'è la babysitter pagata per 6 mesi, ci sono degli asili che partono dai 6 mesi di età del bambino in poi, ci sono tantissime altre politiche di supporto. C'è prima di tutto in Italia, secondo me, ci vuole anche la detassazione del lavoro femminile, però io mi permetto di dire una cosa, quello è un incentivo alla domanda di lavoro femminile, cioè per permettere alle imprese e quindi ai cosiddetti uomini di assumere più donne, ma nel mercato italiano ci vuole anche più volontà di partecipazione delle donne al mercato del lavoro, cioè c'è anche bassa tasso di partecipazione delle donne alla forza lavoro, cioè ci sono poche donne che entrano nel mercato del lavoro, e per quello ci vogliono degli incentivi che sono dei supporti molto pratici, oltre che ovviamente un cambiamento culturale. Ed eccoci qua nella parte conclusiva, come all'inizio della trasmissione, fedelmente anche questo inizio 2012 con The End of Doors. Io spero poi oltretutto di aver avvicinato parecchi che avevano dimenticato i Doors o che magari non l'avevano mai ascoltati. Insomma, grande Jim Morrison è sempre qualcosa che è degno di essere ricordato. Iniziamo a vedere come alcuni di voi pensano che il tema maschile possa cambiare nel 2012 nei confronti delle signore, delle ragazze, delle colleghe o delle aspiranti tali che continuiamo a discriminare. Cominciamo con Alessandro che ci chiama da Rimini. Prego Alessandro. Buongiorno dottor Zannino, buongiorno agli ascoltatori e agli ospiti. Ma io propongo anche una riflessione. La riflessione è questa: giustamente tutto quello che è stato posto, messo nel piatto durante la discussione, rileva tantissimo per quello che è la cultura oggi in Italia rispetto alla cultura europea e quindi di altri stati. C'è da dire che secondo me il problema è anche annesso, legato tantissimo a un difficile ricambio generazionale, perché probabilmente una generazione più giovane, e come ci sono in altri paesi sia in ambito politico che di manager, ha potuto permettere l'introduzione e occuparsi una maggiore anche sensibilità per quanto riguarda la problematica dell'inserimento delle donne nel mondo del lavoro. Oltretutto aggiungerei anche che c'è un problema di natura formativo, e con un gruppo outside abbiamo presentato ad esempio una proposta di legge sulla riforma del mercato del lavoro, e che punta tantissimo su quella che è la formazione e il reinserimento delle persone nel mondo del lavoro, ma basandosi sulla formazione. Oggi le donne, quando giustamente fanno tutta la loro procedura di maternità, quindi devono fare l'astensione, abbandonano temporaneamente il posto di lavoro e si staccano dal mondo del lavoro. Cosa succede? Viene a mancare un momento di formazione e di reintroduzione nel mercato del lavoro e nel mondo del lavoro. Ecco, questo dovrebbe forse essere anche un momento di ragionamento, perché la piattaforma di sostegno alla maternità e a quella italiana non è malvagia, non è sbagliata, sicuramente migliorabile, però manca questo pezzo, quello della formazione per le donne, sia nell'ingresso al lavoro ma anche quando escono, per quella che è la gioia di una maternità, che alle volte purtroppo rischia di diventare invece un momento infelice, aggiunta a quella che purtroppo è una generazione, sotto un certo punto di vista, che ancora è collegata a un vecchio statuto dei lavoratori, dove c'era stata una rivoluzione femminile, ma probabilmente non ha prodotto i suoi effetti. Io sono dell'idea, Alessandro, che oltre alle politiche dirette sul mercato del lavoro, c'è un sistema fiscale. Da questo punto di vista, noi a parità di reddito, se fai il paragone con Francia, Germania, cioè paesi che hanno, diciamo, sistemi fiscali incardinati su principi diversi dai nostri, l'aggravio aggiuntivo a parità di reddito e a parità di numerosità di famiglia su i figli in famiglia è terribile nel nostro paese. Cioè, da questo punto di vista, le deduzioni e detrazioni, così come sono state inserite nel nostro ordinamento, sono peanuts rispetto a quello che il complesso della politica fiscale francese e tedesca dedica a parità di reddito e a parità di carico di figli. Quindi io non penso solo al mercato del lavoro, ma penso anche ad altro. Sentiamo Paolo da Modena. Prego, Paolo. Buongiorno. Ma ero parzialmente d'accordo con quanto diceva Barbara Guerra, Giannino, nel senso che credo che vi sia un serio gap culturale tra i paesi nordici e l'Italia, vi sia un gap anche tra i paesi mitteleuropei, ma vi sia sostanzialmente anche un tema normativo, a differenza di quanto sosteneva la giornalista. Parlo come titolare di impresa che ha una sede principale chiaramente in Italia, ma ha una subsidiary anche in Repubblica Ceca, e gli interventi normativi in favore della maternità e quindi della procreazione in Repubblica Ceca sono sostanzialmente a favore della donna e più in generale della società. Quindi altro che della Gran Bretagna, c'è da copiare la Repubblica Ceca, e su questo io non lo dico per paradosso, sono d'accordo. Le dico soltanto, Giannino, che una donna che fa un figlio in Repubblica Ceca può assentarsi dal lavoro 3 anni, e in questi 3 anni, la facoltà peraltro lasciata alla donna, alla madre, e in questi 3 anni per l'impresa non vi è nessun onere aggiuntivo. Questo non è poco, anzi è tantissimo. Quindi Repubblica Ceca, grazie a Paolo da Modena. Sentiamo Antonio da Caserta su questa componente culturale maschile e maschilista. Insomma, io sentirei anche aspiranti padri o già padri, per vedere se poi cambiano davvero rispetto ai loro tempi, di quando i nostri padri, insomma, erano molto gravati da un pregiudizio nei confronti delle signore. Antonio, prego. Sì, buongiorno Oscar. Appunto volevo portare la mia esperienza. E ci accomuna tra l'altro appunto il sogno della paternità, oltre che probabilmente alla stessa visione della misoginia. Volevo portare la mia esperienza personale e poi magari anche professionale. Dal punto di vista personale, io provengo da una famiglia medio borghese del sud Italia e tirata su, a mio avviso, diciamo, in maniera abbastanza, voglio dire, nelle righe, però con un'imposizione da parte di mio padre verso la mia mamma, ovvero di abbandonare il lavoro a favore della famiglia. Questo ha sì fatto sì che abbiamo avuto noi figli una buona educazione, ma a mio avviso a discapito poi del bilancio familiare complessivo. Mia mamma comunque è venuta, diciamo, è cresciuta con questa frustrazione di fatto, che si è trascinata con gli anni. Adesso vabbè, ormai è settantenne, fortunatamente hanno ristabilito il loro equilibrio di coppia. Bisogna che ce ne ricordiamo quando diventiamo padri, perché la mia idea è che bisogna spedire i figli a lavorare prestissimo, e bisogna poi dare una mano alle donne a essere delle specie di lottatrici da questo punto di vista. Non voglio dire dal punto di vista manesco, ma dal punto di vista della capacità di sapersi prendere non solo per i centimetri quadrati di gambe piacciono anche a me, ma servono ad altro che a fare questo. questo, servono a camminare e a correre, come serve l'intelligenza nella vita a camminare e a correre, poi servono come tutta la bellezza, è sicuramente una componente fondamentale, ma non per ciò che i maschi credono spesso che debba essere per affermarsi nella vita. In questo mi dispiace, io sono convinto che c'è un problema culturale nella testa dei maschi italiani, e questo è radicato molto più che nella testa di altri, che poi ce l'hanno, il pregiudizio maschilista non è solo tipico delle culture latine, ma nelle culture latine è disgustoso, questa è la mia idea. Franco da Milano, prego Franco. Sì, buongiorno Giannino, il tema sollecita moltissime riflessioni, però cercherò di farne una soprattutto a partire dalla mia esperienza professionale, che è quella di avvocato del lavoro, che mi porta a verificare quotidianamente, quasi quotidianamente, che il problema della tutela, diciamo, della condizione lavoratrice come problema concreto, non solo poi la sentenza, la decisione particolare per stare soprattutto nelle grandi aziende, è tuttora molto attuale. E secondo me si presenta sotto due profili. Uno in particolare, nelle grandi imprese dove ci sono donne spesso anche di qualità professionali pari, superiori, diverse a seconda dei casi a quelle degli uomini, la difficoltà della progressione di carriera, dell'affermazione, è molto legata spesso ai ritmi stressanti, agli orari che non sono compatibili, che sono che non sono compatibili con poi la scelta di dedicarsi alla cura dei figli, alla cura della famiglia. L'altra cosa, volevo metterla sull'avviso, Giannino, mi permetta. Dica. Lei continua a usare il concetto di iperprotetti. Ora, al di là della della condivisibilità o meno in generale nel dibattito di queste settimane di questo concetto, che personalmente io non condivido, ma proprio non condivido linguisticamente, prima ancora giuridico. Ecco, le faccio presente una cosa: nella media grande impresa, perché nella piccola impresa il problema culturale secondo me sovrasta quello giuridico, è più importante quello giuridico, ma nella media grande impresa, quella che lei chiama iperprotezione, quindi per esempio l'articolo 18 e tutt'altro, è oggi una delle frontiere essenziali, delle trincee essenziali proprio per la tutela delle donne rispetto a quei comportamenti che lei, anche a partire dalla sua esperienza personale, non ha fatto altro che giustamente censurare nelle cose che ha detto oggi. Stiamo molto attenti. Io mi fermo, Franco, al fatto che in tutti i rapporti internazionali comparati, una delle ragioni individuate dalle aziende straniere per il minor tasso di investimenti diretti esteri nel nostro paese è il mercato del lavoro. Quando gli si va a chiedere perché, ti dicono perché la rigidità sopra la dei 15 è incomparabilmente più elevata che qualunque altro paese. Poi ci possiamo dividere, continuiamo a dividere, ci possiamo credere di aggiungere ulteriormente tutela come quella sopra i 15 dipendenti vecchio statuto anche a tutta la piccola impresa. Non voglio levare a nessuno delle generose illusioni, io credo che a quel punto scopriremo che i costi e le rigidità sarebbero esattamente al contrario di un sistema che deve concentrare la tutela a chi perde il lavoro, quando lo perde, non dov'è, com'è, a prescindere dalle soglie di dipendenti. Questa è la mia cosa fondamentale. Noi non facciamo la prima cosa e lasciamo soli la maggioranza dei lavoratori italiani nell'illusione poi di difendere in quelle grandi i posti di lavoro come sono e dove sono, che è una sciocchezza, perché le aziende devono ristrutturare, più rapidamente ristrutturano più rapidamente il mercato del lavoro si riprende. Allora, sentiamo poi ancora l'esperienza di Michele da Torino. Prego Michele, abbiamo rapidissimamente pochi secondi. Sì, buongiorno. Credo che si parli pochissimo della vera esigenza, una delle grandi esigenze che hanno le donne nel mondo del lavoro. Quale? E cioè quello di avere l'opportunità di lavorare e conciliare la famiglia, quindi di puntare pochissimo sul lavoro part-time. Perfetto, questo ti devo fermare qua perché stiamo rapidissimamente chiudendo a 58, ho sbagliato a dare troppe risposte, mi scuso con Ludovico da Roma, l'appuntamento domani, buon anno e ricordatevi, trattatele meglio le signore per essere trattate meglio anche da loro. Questo è l'impegno per il 2012. A domani.